perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La Gran Bretagna uscirà dall'Europa, festeggiano gli euroscettici, Cameron annuncia le dimissioni, ora inizia il negoziato con Bruxelles. Nel Regno Unito si apre anche il tema di Scozia e Irlanda del Nord, entrambe hanno votato per rimanere e ora potrebbero chiedere l'indipendenza. Crollano i mercati, Milano perde il 10%, la sterlina tocca i minimi sul dollaro, la banca centrale inglese ha pronti 250 miliardi di liquidità, piano d'emergenza anche per la banca centrale europea. Effetti limitati sull'economia reale, secondo il Ministero dell'Economia. Don't panic, è ora di reagire, dice il presidente di Confindustria Boccia. L'Europa ad un nuovo bivio, si interroga sul suo futuro. Le Pen, Salvini e Wilders vogliono l'uscita dai 28 anche di Francia, Italia e Olanda. E altre notizie, un filone delle indagini su Banca Etruria porta al cardinal Bertone, donazioni ricevute da un'azienda fantasma. Il caso di Maria, la bambina morta nella piscina nel Beneventano, si indaga su altri due uomini, si alleggerisce la posizione dell'indagato. Europei di calcio, chiuso la fase a gironi, domani si inizia con gli ottavi, Svizzera-Polonia, Croazia-Portogallo e anche Galles-Irlanda del Nord. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. La puntata di oggi sarà una puntata quasi monografica e inevitabilmente sul voto che è arrivato dalla Gran Bretagna, un voto nel quale appunto la Gran Bretagna e i cittadini britannici hanno deciso di uscire dall'Unione Europea con una maggioranza, dire la verità, anche abbastanza ampia, oltre il 51%. Una giornata nella quale i riflessi sui mercati si sono fatti sentire immediatamente, Milano perde il 10,27% in questo momento con i bancari che vanno malissimo, a partire da Intesa San Paolo che perde 20 punti percentuali, Unicredit il 18 e Banca Popolare Emilia Romagna il 17,3, Mediobanca il 16, Banco Popolare il 15% e sono negative anche le altre borse europee, Londra perde il 4,7% e la sterlina è in netto calo sul dollaro. Sui mercati e ai mercati arriveremo tra poco, faremo il punto su tutto e vi daremo anche dei chiarimenti su quello che succede a questo punto, perché la procedura dopo il voto britannico non è assolutamente immediata e anzi è questo uno dei grandi fronti di incertezza. Iniziamo però proprio da Londra e dal nostro inviato Sergio Nava. Sergio, buongiorno. Buongiorno Simone, più passano le ore più si ha ormai cognizione della vastità del terremoto politico innescato da questa decisione del popolo britannico di uscire dall'Europa, terremoto che non solo europeo ma anche nazionale, perché poco fa la premier scozzese Nicola Sturgeon ha annunciato che comincerà i preparativi legislativi per indire un secondo referendum sull'indipendenza scozzese, perché di fatto le ha detto la Scozia ha votato per restare in Europa, non possiamo essere tolti contro la nostra volontà, ed è evidente a questo punto l'intenzione del partito nazionalista scozzese, di cui la Sturgeon è espressione, di indire un secondo referendum per l'indipendenza prima che la Gran Bretagna esca, in modo da riuscire a restare in Europa. Benissimo Sergio, su questo tra l'altro arriveremo tra poco, abbiamo già in linea la collega Giorgia Scaturo che ci aggiornerà su questo tanto quanto sui temi dell'Irlanda del Nord. Restiamo al punto politico inglese, Sergio. E allora parliamo di David Cameron che è comparso intorno alle 9:15 ora italiana, alle 8:15 qui. Possiamo forse sentire già la sua voce. I will do everything I can as Prime Minister. Cameron ha detto: il voto va rispettato, non ci sono dubbi sul risultato, i britannici hanno preso una decisione chiara. Ha poi assicurato i mercati sulla solidità dell'economia britannica e soprattutto ha assicurato che non ci saranno cambiamenti immediati su residenza di stranieri, mobilità degli stranieri, ovviamente europei, e circolazione anche delle merci. Ma la notizia l'ha data quando ha detto: non sarò io a condurre i negoziati con l'Unione Europea, lo farà il mio successore che dovrà essere designato entro il congresso del Partito Conservatore che si terrà a ottobre. E questo è il vero punto politico di un Cameron che è apparso alla fine quasi in lacrime, la sua più grande sconfitta politica, perché ha detto di fatto non sarò io a chiedere, a invocare l'articolo 50 per uscire dall'Unione Europea, l'ha lasciato intendere, e questo apre una fase enorme di incertezza. Dopo Cameron prima di Cameron ha parlato anche il leader UKIP, per lui oggi il giorno del trionfo, Nigel Farage, sentiamo. 17 million people have said we must leave the European Union. We now need Ha detto 17 milioni di persone hanno detto dobbiamo lasciare l'Unione Europea, serve un governo della Brexit che avvii trattative per gestire questa fase e tessere negoziati commerciali con gli altri paesi. Farage ha proposto che il 23 giugno diventi una festa nazionale dell'indipendenza e si è messo di fatto a capo di questo movimento di uscita dall'Europa, perché si è auspicato che soprattutto nel nord Europa, ma anche in altri paesi, ha citato anche l'Italia, si facciano referendum analoghi. Non so se c'è tempo per sentire anche un passaggio del leader laburista, sì, Corbyn. Sì, vai Sergio. Corbyn, diciamo, si trova in una posizione molto difficile, perché di fatto ha accettato il risultato, ha negato che si dimetterà da leader laburista, ma lui stesso è sotto pesante attacco nel suo partito per l'atteggiamento estremamente tiepido con cui ha difeso il restare in Europa, e quindi lui stesso ora rischia seriamente la poltrona. Queste le principali reazioni da parte della politica britannica, ma come detto è un vero e proprio terremoto e ne sentiremo gli effetti ancora a lungo. Sicuramente, e grazie intanto al nostro Sergio Nava, e poi su tutto questo tra l'altro arriveremo più avanti, come vi dicevo parleremo anche dei mercati, avremo anche un'analisi su quello che è successo, su quello che ci attende per i prossimi mesi. Intanto, come si diceva, andiamo alla mappa del voto, è particolarmente importante proprio per quello che ci accennava già Sergio Nava poco fa, tanto per la Scozia quanto per l'Irlanda del Nord, dunque con Giorgia Scaturro. Giorgia, buongiorno. Sì, buongiorno. Diciamo che il voto ha diviso in modo particolarmente netto il Regno Unito. Il Leave ha segnato il suo obiettivo nell'intera area estesa tra le città rurali del Galles e le maggiori industriali dell'Inghilterra del Nord, come Sheffield e Birmingham, ed il sud-est dell'isola, lasciando il Remain a dominare Londra con punte del 75%, l'Irlanda del Nord con il 56% e la Scozia, su cui ora si concentra tutta l'attenzione. In questi due paesi la vittoria dei pre-europeisti riapre gli scenari di una spaccatura dal Regno Unito. Martin McGuinness, il vicepresidente premier dello Sinn Féin in Irlanda del Nord, aveva già annunciato che la Brexit avrebbe creato un imperativo democratico per indire un referendum per la separazione dal Regno Unito. In Scozia, dove la campagna del Remain con il 62% ha sbaragliato il Leave al 38%, si è ufficialmente aperta l'ipotesi di un secondo referendum che questa volta potrebbe davvero staccare gli scozzesi dall'Inghilterra e di avvicinarli all'Unione Europea. Nicola Sturgeon, il premier e leader del partito nazionalista scozzese, che ha combattuto una delle campagne referendarie più tenaci per l'Unione, ha appena dichiarato che dopo il voto di ieri un secondo referendum per l'indipendenza è sul tavolo. Sentiamola. I want to make it absolutely clear today. Per conto mio valuterò tutte le ipotesi per far rimanere la Scozia nell'Unione Europea e nel mercato unico, ha detto Sturgeon, dichiarando che il prospetto che la Scozia sia strappata dall'Unione Europea contro il suo volere è democraticamente inaccettabile. Simone, a te la linea. E grazie a Giorgia Scaturro. Dunque, un Regno Unito che a questo punto, scusate il gioco di parole, si trova diviso e si apre una grande fase di incertezza, la fase di incertezza appunto che precede il cambio della guardia a Downing Street. Per un'analisi abbiamo in diretta Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Leonardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Mi sembra che la cosa più preoccupante siano questi tre mesi che precedono il congresso del Partito Conservatore e quindi il fatto che teoricamente le trattative con Bruxelles non inizieranno prima di allora, e quindi una grande fase di incertezza. Ma Londra, sia David Cameron sia i suoi potenziali successori, da Boris Johnson a Michael Gove, hanno dato subito la sensazione di non voler accelerare. Hanno tutti sottolineato che l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che poi consente 2 anni per definire le nuove relazioni tra un paese uscente e l'Unione Europea, non verrà attivato immediatamente, contrariamente a quello che Cameron aveva detto durante la campagna elettorale. Quindi sarà un momento di riflessione che si accompagna inevitabilmente con i lavori per la definizione della nuova leadership del Partito Conservatore. Mesi di incertezza, ma sì, mesi che in un paese che è sotto shock, perché la Gran Bretagna in questo momento è ovviamente sotto shock, sono necessari per gestire una transizione verso la nuova leadership. Transizione, come si diceva Leonardo, che potrebbe addirittura portare alla separazione di due pezzi del Regno Unito, l'Irlanda del Nord che vuole unirsi all'Irlanda e la Scozia che vuole lasciare il Regno Unito per passare con l'Unione Europea. Devo dire che le parole di Nicola Sturgeon, il primo ministro scozzesi sono state come sempre nettissime e chiarissime. Lo stesso Alex Salmond, storico leader nazionalista scozzese, in un'intervista sulle 24 ore ce l'aveva detto: non si discute, noi vogliamo rimanere nell'Unione Europea, il popolo lo ha confermato ripetutamente in modo netto ieri, quindi questa è la direzione. Non solo, ma Nicola Sturgeon ha sottolineato che lei intende partecipare ai negoziati e alle trattative che Londra farà con gli altri partner, che prenderà contatto direttamente con i capi di governo di Stato degli altri paesi. Sono già delle definizioni che danno, come dire, l'indicazione di una volontà che certamente va nella direzione del mantenimento della Scozia all'interno dell'Unione Europea, o quantomeno del single market. Questo deve passare per forza attraverso l'indipendenza? È molto probabile, ma non è detto che sia necessariamente così. Bisognerà vedere quali saranno gli sviluppi nei prossimi mesi. Ti ringrazio, grazie anche a Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, e con questo elemento, con l'analisi di Leonardo Maisano, chiudiamo la parte strettamente relativa alla Gran Bretagna. Tra un attimo arriveremo alle reazioni, ma le più importanti in questo momento sono quelle dei mercati. Iniziamo da questa voce. La voce è quella del governatore della Bank of England, Mark Carney, che dice che l'istituto non esiterà a prendere misure addizionali ed è pronto a fornire extra fondi per 250 miliardi di sterline. Siamo ben preparati, dice Carney, ma evidentemente questo ai mercati non basta, Deborah Rosciani. Direi proprio di no, infatti le perdite sono ancora pesantissime fra i listini continentali, già presagi oscuri si erano visti questa mattina sui listini asiatici, con Tokyo che è tracollata dell'8%, le altre piazze finanziarie asiatiche hanno perso un po' meno, ma il quadro maturato è stato negativo ovunque. Poi questa mattina situazione pesantissima in Europa, con contraccolpi durissimi soprattutto sulle borse considerate periferiche. Infatti la Grecia perde il 14%, Milano meno 10 punti percentuali, calo molto forte anche a Madrid. Su Milano questa mattina le vicende più originali, tra virgolette, perché è stata la piazza finanziaria che ha fatto più di tutte fatica ad aprire regolarmente le negoziazioni, e questo perché c'erano addirittura alcune banche che in preapertura davano un ribasso vicino al 50%, poi rapidamente recuperato, quindi mani fortissime, probabilmente anche azioni di buyback delle stesse società che hanno consentito appunto di ridimensionare un po' il calo teorico in avvio. Non che le cose adesso vadano meglio, perché le big del settore perdono circa 20 punti, mi riferisco ad Unicredit e di Intesa San Paolo, mentre le altre banche sono in calo comunque tra i 10 e i 15 punti percentuali. Non mi rimetto a fare la lista della spesa, tanto sono tutte in calo in questa misura. I titoli che perdono meno, quelli che hanno qualche apparenza di titolo difensivo, il cemento, le società che sono largamente esposte su tutti i mercati internazionali, quindi Italcementi, Luxottica, Snam e Campari, appunto hanno dei cali di circa 3 punti percentuali. La reazione più violenta, come era naturale attendersi, si è avvertita invece sul mercato valutario, con la sterlina che è precipitata sul dollaro a livelli che non vedeva da ben 30 anni a questa parte. La quotazione è arrivata intorno a 1,3220 nel rapporto di cambio appunto con il biglietto verde, per poi recuperare un po' a 1,3698. Vi segnalo solo che stanotte, quando abbiamo intervistato Stefano Carrer, che ci ha dato le preaperture del mercato asiatico di Tokyo, era intorno a mezzanotte e mezzo, e non solo la borsa di Tokyo saliva del 2%, ma la sterlina aveva toccato il massimo dal 2015 sul dollaro a 1,50. Quindi questa è la dimensione dell'andamento appunto della divisa britannica. Sul mercato obbligazionario lo stesso, c'è altrettanto fermento. Vi do il parametro che ci piace di più, lo spread tra BTP e Bund, che stamattina ad un certo punto è volato a 190 punti base per poi scendere intorno ai 150. Naturalmente questo è un mercato che sconta la presenza della rete di protezione della Banca Centrale Europea, che ancora non è intervenuta, almeno non ufficialmente appunto, per ridimensionare un po' questa situazione sui mercati. L'unica banca centrale europea che ha fatto sapere di essere attivamente intervenuta questa mattina è stata la Banca Nazionale della Svizzera, che ha voluto un pochino calmare il fermento sul franco e quindi ha fatto sapere di essere intervenuta sul mercato dei cambi. Quindi insomma movimenti molto intensi questa mattina. Vi do le prestazioni degli indici europei che alla fine, dopo tutto questo chiacchierare, non ho dato. Francoforte perde il 7,24%, Parigi meno 8,59%, l'Eurostoxx 50 50, meno 8,57. Londra perde meno delle altre, meno 4,5 punti. Le preaperture sono negative anche per Wall Street, ma un po' in miglioramento rispetto ad un paio di ore fa. Le listini americane dovrebbero aprire con un calo fra il 2% e il 3%. Direi, Simone, che per il momento è tutto. E ti ringrazio, grazie a Deborah Rosciani, poi torneremo ad aggiornarvi sull'andamento dei mercati alle 13.30. Deborah Rosciani che citava la Banca Centrale Europea che è pronta ad intervenire, dunque abbiamo in linea con noi il corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Alessandro, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, dunque si diceva anche la BCE ha detto di essere pronta ad intervenire, no? Sì, per ora la BCE ha fatto un comunicato dicendo che sta monitorando molto da vicino i mercati finanziari, che è in contatto con tutte le banche, che è pronta a fornire liquidità addizionale se ce ne sarà bisogno, sia in euro sia in valuta. Ricordiamo i famosi accordi di swap che ci sono fra le 6 maggiori banche centrali, che consentono loro di servire ai mercati la valuta di cui hanno bisogno, e comunque continuerà a far rispettare stabilità dei prezzi e stabilità finanziaria. Un comunicato molto scarno, dietro a questo c'è la preparazione che la BCE ha fatto in queste settimane. La parola d'ordine evidentemente è liquidità, che è quella che di solito viene a mancare quando ci sono questi casi di panico. Stamattina molti operatori dicevano che la liquidità era scarsa in vari comparti del mercato. Non si rileva per il momento nessuna istituzione finanziaria, o perlomeno non si sa che abbia fatto appello alle banche centrali o alla BCE per avere liquidità straordinaria. Brevemente, Alessandro, visto che sei là, abbiamo già reazioni anche dalla Germania, dal governo tedesco? Beh, le prime reazioni dei politici, il ministro delle finanze Schäuble, il ministro degli esteri Steinmeier, sono reazioni dispiaciute. Sappiamo che i tedeschi erano fortemente a favore di una permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea, anche perché spesso fa da sponda alla Germania, anche se non sempre vedono le cose nello stesso modo. Domani va registrato anche che a Berlino i 6 ministri degli esteri dei paesi fondatori dell'Unione Europea, quindi i 3 del Benelux, Francia, Germania e Italia, si troveranno appunto a Berlino ospiti di Steinmeier per cominciare a delineare il futuro dell'Unione Europea dopo Brexit, che poi verrà affrontato dal vertice dei capi di Stato la prossima settimana. Allora, grazie ad Alessandro Merli. Faccio attendere ancora i colleghi della Viabilità, a cui dovrei dare la linea adesso perché ha iniziato a parlare il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Sentiamo. Mezzo. La stabilità del sistema finanziario e la sicurezza dei risparmiatori. E del resto l'Italia è tornata solida. Oggi ha un dovere, il nostro Paese ha il dovere di offrire questa solidità anche agli altri partner europei, e per questo siamo impegnati fin da domani con i ministri degli esteri, a cominciare dai ministri degli esteri dei Paesi fondatori, e poi dal lunedì, quando incontrerò la cancelliera Merkel e il presidente Hollande a Berlino. Se devo dare un nome all'Europa, voglio chiamarla casa, perché la casa non è soltanto un luogo fisico, la casa è un insieme di sentimenti, è un insieme di emozioni, e la casa è un luogo di solidità e di sicurezza. L'Europa è casa nostra, non solo nostra, di noi italiani, ma è casa nostra, ed è la casa dei nostri figli e della casa dei nostri nipoti. Lo diciamo oggi più che mai, convinti come siamo che questa casa abbia bisogno di essere ristrutturata, forse rinfrescata, ma è la casa del nostro domani. Il mondo che verrà, del resto, ha molto bisogno di Europa. Ha bisogno dell'Europa dei valori, dell'Europa della fantasia, dell'Europa dell'innovazione, dell'Europa del coraggio, dell'Europa della passione, dell'Europa della cultura, della libertà, della democrazia. In una parola possiamo dire che il mondo che verrà ha molto bisogno dell'Europa dell'umanesimo, che ha segnato la nostra civiltà per secoli. E a chi oggi domanda più sicurezza e più tranquillità, Dobbiamo ricordare che ci sono 70 anni di storia lì a dimostrare che la pace è stata possibile grazie all'unione, non alla divisione. E così dunque il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, in un passaggio della conferenza stampa che si sta tenendo in questi minuti. Più avanti nel corso della trasmissione torneremo a riassumervi anche quali sono le altre reazioni politiche, anche quelle dei partiti euroscettici, però abbiamo innanzitutto le reazioni internazionali, arrivano dopo il traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, in una puntata quasi interamente dedicata al Brexit, al voto dei britannici per l'uscita dall'Unione Europea. Abbiamo parlato ampiamente di quello che è successo in Gran Bretagna, dei mercati, ci torneremo tra un attimo. Adesso andiamo alle reazioni, prima quelle internazionali, poi quelle italiane. Iniziamo da quelle europee. Laura Bettini, ciao, buongiorno. Buongiorno, sì, Cancelleria e istituzioni europee ovviamente mobilitate fin dall'alba dopo il voto che ha visto vincere i Leave in Gran Bretagna. Per domenica è prevista una prima riunione degli Sherpa del Consiglio europeo per preparare il vertice di martedì e mercoledì prossimo, dove arriverà il premier britannico Cameron a spiegare i prossimi passi che intende compiere. Il Parlamento europeo invece si riunisce in seduta plenaria straordinaria martedì prossimo. Questa è una situazione senza precedenti, ma siamo uniti nella risposta, si legge nella dichiarazione congiunta firmata dal Presidente della Commissione europea Juncker, il Presidente del Consiglio europeo Tusk, quello del Parlamento europeo Schulz e il Presidente di turno, che è il Premier olandese Rutte. Non ci sarà rinegoziazione, ha detto subito il Presidente della Commissione, precisando finché il processo negoziale non sarà finito, la Gran Bretagna resta membro, sarà membro con tutti i diritti e doveri che ne conseguono e non si applicheranno gli accordi del febbraio scorso. Era stato molto duro in mattinata su Twitter il presidente del Parlamento Schulz. Per 40 anni le relazioni tra la Gran Bretagna e l'UE erano state ambigue, ora è chiara. Ora c'è bisogno di un negoziato chiaro e veloce per l'uscita, aveva scritto. Il presidente invece del Consiglio europeo, Tusk, si è dichiarato particolarmente preoccupato per la tenuta politica della UE. There's no hiding the fact that we wanted a different outcome. Non nascondo che volevamo un risultato diverso, dice, sono cosciente di quanto grave e drammatico sia questo momento politicamente, non c'è modo di prevedere tutte le conseguenze politiche. E con questo si riferiva certamente anche alle forze euroscettiche che hanno già alzato la voce. In Italia si è subito pronunciata la Lega, in Olanda il Partito della Libertà di Geert Wilders, in Francia conferenza stampa stamattina di Marine Le Pen. L'Europe sera au cœur de la prochaine campagne présidentielle. L'Europa sarà al centro della prossima campagna presidenziale. Il Front National, se vincerà le elezioni del 2017, avvierà le procedure per un referendum sulla Frexit, quindi l'uscita della Francia. Simone. E grazie Laura Bettini per questi primi aggiornamenti appunto sulle reazioni. Noi ci sono reazioni ovviamente anche dagli Stati Uniti e siamo in linea col nostro Mario Platero. Mario, innanzitutto buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Simone. Beh, devo dire allora, è stata una notte agitata. Una notte agitata. Allora Mario, brevemente, perché poi ti ritroviamo con una puntata speciale di America 24 dedicata proprio a questo a partire dalle 13:45 subito dopo il traffico, quindi dacci un quadro flash, vai. Ma dunque quadro flash, beh, su tre fronti, mercati naturalmente, mercati molto agitati, i futures non promettono bene, le borse apriranno in ribasso anche in America, il fronte aziendale, cosa faranno le aziende americane, infine il fronte politico, Barack Obama non credeva che ci sarebbe stato Brexit e Trump invece lo credeva, dunque qualche cosa cambia sia dal punto di vista, diciamo, delle prospettive americane e della sua gestione del multilateralismo, sia per la politica interna. E grazie Mario, dunque davvero anche per la rapidità, perché poi ti ritroveremo, come dicevo, una puntata interamente dedicata a questo di America 24. Per chiudere il quadro, le reazioni italiane a partire da quelle economiche, quella del presidente della Confindustria Vincenzo Boccia e quelle anche del Ministero dell'Economia e delle Finanze Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, fronte economico. E allora, occhi puntati sul Ministero dell'Economia, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea avrà effetti comunque limitati sull'economia reale italiana, spiegano ufficialmente da Via 20 Settembre, dopo la riunione presieduta dal ministro Piercarlo Padoan del Comitato per la Salvaguardia della Stabilità Finanziaria. La solidità dei fondamentali delle imprese tornerà presto a prevalere sulla volatilità dei mercati finanziari, dicono ancora dal Ministero. È un invito di fatto a non avere particolari timori per la Brexit, quello che arriva dunque da Padoan, stesso discorso per i fondamentali del sistema bancario che, si legge nella nota del Ministero, restano solidi. Invito quello di Padoan che viene ripreso anche da Confindustria. Don't panic, dice il presidente Vincenzo Boccia, la Brexit va vista come un'opportunità per rilanciare l'Europa. Ascoltiamo questo passaggio. È evidente che l'effetto Brexit comporterà ansia nei mercati e effetti speculativi, ma il punto di caduta è, non dimentichiamo, i fondamentali d'Europa. Fondamentali che vanno ricostruiti in un'idea che abbiamo lanciato molto chiara in assemblea pubblica e che diventa ancora più attuale, che è quella di trasformare il trauma, tra virgolette, Brexit in una grande opportunità. Quindi don't panic, diciamo, dice Confindustria, tanto per capirci, è evidente che gli effetti ci saranno, i fondamentali sono a posto, però cerchiamo di utilizzare, diciamo, questo momento dando priorità a questo punto all'agenda europea prima ancora che all'agenda italiana. Noi avevamo immaginato, diciamo, un'agenda italiana, in realtà oggi si pone una priorità di un'agenda europea. E l'impegno secondo Confindustria deve essere allora quello di rilanciare l'Europa ed evitare il pericolo di un effetto domino negli altri paesi. È tutto, Simone, linea allo studio. E grazie anche a te, Vincenzo Miglietta. Per chiudere il quadro delle reazioni, ci sono le reazioni politiche, in parte abbiamo sentito un passaggio, un intervento del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ma ovviamente ce ne sono altre. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, vertice a Palazzo Chigi per esaminare i risvolti della Brexit, presente quasi tutto il governo, rinviata la direzione del PD proprio per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Per il Premier Matteo Renzi, come abbiamo sentito, bisogna cambiare l'Europa e renderla più umana e giusta. I commenti sono divisi tra le varie forze politiche, esulta Matteo Salvini, la Lega inizierà la raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che permetta agli italiani di esprimersi sui trattati europei, in sintesi un referendum. Ma sentiamo Salvini ai microfoni di 24 Mattino. O si riprendono i trattati dal primo all'ultimo, alcuni dei quali hanno 30 anni e sono superati, si rileggono, si riscrivono con più senso, oppure se l'Unione Europea è l'interesse di tre banchieri, tre finanzieri, non capisco dove sia il vantaggio per i cittadini, per i giovani, per i lavoratori, al di là dello spirito. Quindi spero che questa proposta serva a rimettere sui binari un'unione che in questo momento fa l'interesse di pochi. E Salvini è disposto anche ad incontrare Matteo Renzi per cambiare i trattati dell'Unione Europea. Una richiesta arriva anche da Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. Vogliamo che in Europa torni la democrazia. Per il Movimento 5 Stelle parla Luigi Di Maio e chiede anche lui un referendum ai cittadini sugli argomenti decisivi per i popoli. Di parere opposto l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che lancia un appello affinché tutte le forze politiche e sociali ripensino ai loro atteggiamenti affinché non prevalga il vuoto. E nel PD di Luigi Zanda va controverso, bisogna andare verso un'unione non solo economica ma anche politica. A te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito anche per questo aggiornamento, ma c'è anche un altro punto: che cosa succede adesso effettivamente? Quali sono le trattative che si apriranno? Cosa prevede l'articolo 50, insomma, dei trattati europei, che prevede l'uscita di un paese? Che cosa succederà ai cittadini italiani che vivono in Gran Bretagna e ai cittadini inglesi che vivono nel resto d'Europa? Ne parliamo dopo la pausa e dopo la borsa, che anche quella è un aggiornamento importante. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri titoli: la Gran Bretagna uscirà dall'Europa e festeggiano gli euroscettici, Cameron annuncia le dimissioni, ora inizia il negoziato con Bruxelles, ma probabilmente almeno da ottobre. Nel Regno Unito si apre il tema di Scozia e Irlanda del Nord, entrambe hanno votato per rimanere e ora potrebbero chiedere l'indipendenza. Crollano i mercati, Milano perde il 10%, la sterlina tocca i minimi sul dollaro, la banca centrale inglese ha pronti 250 miliardi di liquidità, ci arriveremo tra un attimo. Effetti limitati sull'economia reale, secondo il Ministero dell'Economia. Don't panic, è ora di reagire, sono le parole del presidente di Confindustria, Boccia. L'Europa ad un nuovo bivio, intanto si interroga sul suo futuro. Le Pen, Salvini e Wilders vorrebbero l'uscita dai 28 anche di Francia, Italia e Olanda. Le altre notizie vedremo se avremo spazio per darvi servizio. Un filone delle indagini su Banca Etruria porta al cardinal Bertone, donazioni ricevute da un'azienda fantasma. E poi il caso di Maria, la bambina morta nella piscina nel Beneventano, si indaga su altri due uomini, si alleggerisce la posizione dell'indagato. La borsa, appunto. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the Playmakers. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, tra un attimo arriveremo anche alle altre notizie, compresi gli europei di calcio. Tra l'altro domani giocano l'una contro l'altra, il Galles che ha votato pro per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, l'Irlanda del Nord che invece ha votato a favore. Comunque adesso parleremo anche di europei, ma prima chiudiamo il capitolo Brexit e lo facciamo con Chiara Bussi del Sole 24 Ore. Chiara, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Vogliamo andare proprio sull'aspetto pratico con te e vediamo di... cercando di essere veloci, due o tre domande a partire da questa. Che cosa succede ora sulla base dell'articolo 50 dei trattati europei, quello che prevede la possibilità per un paese di uscire? Abbiamo detto l'uscita è tutt'altro che immediata. Certo, l'uscita è tutt'altro che immediata. Adesso siamo entrati in una terra incognita, ce ne stiamo accorgendo proprio in queste ore. Anche perché non si tratterà di un divorzio lampo, questa è una grande certezza, e tutto è regolato dall'articolo 50, come dicevi tu Simone, del Trattato di Lisbona. Il problema è, come abbiamo già visto dalle dichiarazioni di Cameron, di Boris Johnson, l'intenzione dell'Inghilterra non è di invocare subito l'articolo 50, quindi la prima certezza riguarderà i tempi. Supponiamo quindi di partire, ipotizziamo che l'Inghilterra chieda, non sappiamo ancora quando, diciamo a partire da ottobre, l'Inghilterra chiederà l'applicazione dell'articolo 50 del trattato UE. A questo punto scriverà una lettera al Consiglio europeo dicendo che ha l'intenzione di uscire, e proprio da questo momento inizieranno le trattative. Come vi dicevo, non si tratterà di un divorzio lampo, perché i negoziati dureranno almeno 2 anni ed è prevista la possibilità di una proroga. Sì, quindi due anni prorogabili, quindi potrebbero, insomma, ovviamente non escono subito. Ti voglio chiedere subito questo: c'è grande incertezza e molti se lo stanno chiedendo perché magari hanno parenti, amici, persone che vivono là in Gran Bretagna, vivono e lavorano là in Gran Bretagna. Cosa succede a queste persone? Nell'immediato mi sembra di capire nulla. Nell'immediato nulla, bisognerà attendere la fine delle trattative, e la grande incognita riguarderà l'accordo che Londra negozierà con gli altri partner europei. Dal momento in cui lascia diventerà un paese terzo, quindi dovrà negoziare un nuovo tipo di relazione, come avviene in ogni divorzio. Diciamo. O con l'Unione Europea o con ogni singolo paese. O con l'Unione Europea o con ogni singolo paese. Questo è il grande punto interrogativo. Si possono fare delle ipotesi però, perché vivono in Gran Bretagna 3.300.000 cittadini comunitari. Di questi oltre 500.000 sono italiani. E quindi mi immagino molte famiglie che sono col fiato sospeso. Molti di questi sono studenti universitari. Uno dei possibili impatti, ripeto, non immediato, ma dal momento dell'uscita della Gran Bretagna, e tutto dipenderà dal tipo di accordo che verrà negoziato, potrebbe essere sulle rette universitarie, perché al giorno d'oggi le rette, gli studenti italiani, tedeschi, francesi, quindi degli altri paesi europei, pagano le stesse rette dei cittadini britannici, quindi pagano non più di 9.000 sterline all'anno. Addirittura gratis in Scozia. Addirittura gratis in Scozia. I problemi sorgerebbero in un secondo momento, quindi al momento dell'uscita, perché rischiano di essere applicate le stesse rette dei paesi terzi, di paesi, non so, degli studenti malesiani, degli studenti svizzeri o di altri paesi del mondo che vanno a studiare in Inghilterra. E a questo punto, ad esempio, per facoltà come medicina, la retta può arrivare fino a 36.000 sterline l'anno, una bella differenza. Un discreto cambiamento, tra l'altro, in un paese che come dire, non è propriamente economico, certo, per viverci, per quanto la sterlina possa calare. Certo. Chiara, brevissimamente, le imprese. Le imprese, ci possono essere dei problemi anche per imprese. Innanzitutto diciamo che l'Italia ha esportazioni in Gran Bretagna che valgono 22,5 miliardi e secondo molti uffici studi qui si rischierebbe una riduzione dell'export, cioè le imprese italiane ridimensionerebbero un pochino i loro piani di investimento in Gran Bretagna. Verrebbero meno anche le esenzioni fiscali previste da alcune direttive comunitarie che non si applicherebbero più a Londra, e poi ci sarebbe anche un contraccolpo per alcune alcune regioni italiane. Mi viene in mente un recente studio di Nomisma secondo cui uno dei maggiori impatti sarebbe sentito dalla Basilicata, proprio dalla Fiat di Melfi, dove vengono prodotte le Fiat 500 e la Jeep Renegade destinate al mercato britannico. Dunque vedremo che cosa succederà. Sicuramente i tempi non sono brevissimi, ma questi sono i rischi. Grazie a Chiara Bussi del Sole 24 Ore, che ha curato su questo tra l'altro un dossier, e non lo trovate in edicola perché era nel Sole 24 Ore del lunedì, e però lo potete trovare ovviamente in digitale, dove ci sono tutti i dettagli su tutto questo. Passiamo alle altre notizie prima di andare a chiudere. Innanzitutto la vicenda del Cardinal Bertone e di Banca Etruria. Sotto la lente dei magistrati ci sono donazioni da 700.000 euro ottenute tra il 2008 e il 2012 dall'ex segretario di Stato Vaticano Tarcisio Bertone dalla Privilege Yard, società che doveva costruire in un cantiere di Civitavecchia un super yacht da 127 metri finanziato con 100 milioni di euro da un consorzio di 6 banche guidato da Banca Etruria. Progetto fallito per la bancarotta della società, su cui la Procura di Civitavecchia ha aperto un'inchiesta. Nell'ambito delle indagini sono stati perquisiti l'ex presidente Etruria Fornasari e altri due manager indagati per bancarotta fraudolenta dalla Procura di Arezzo per il dissesto della Popolare. 30 milioni prestati alla Privilege di Mario Lavia, società che non si era mai occupata di yacht, non sono mai rientrati. Compito dei magistrati capire se l'ex segretario di Stato abbia avuto un ruolo nel convincere le banche della bontà di un progetto finito in un cantiere dismesso, con lo scheletro arrugginito di uno yacht. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E prima di chiudere, tanto abbiamo parlato di Europa, adesso parliamo di europei. Dario Ricci, nostro inviato in Francia. Dario, eccoci. Ciao. Eccoci qua da Montpellier. Beh, live or remain è anche la domanda che si fanno gli azzurri in vista della sfida con la Spagna, perché sarà sfida da dentro, fuori. E speriamo che in questo caso vinca il remain. Speriamo che vinca il remain, speriamo. In questo caso. E anche in quel caso sarebbe una sorpresa, Simone. Sì. Beh, azzurri che continuano ad allenarsi qui a Montpellier. Stamattina allenamento a ranghi quasi compatti, lavoro sempre differenziato per Antonio Candreva, che sta recuperando dall'infortunio muscolare. È tornato in gruppo Bernardeschi, che ieri aveva saltato l'allenamento pomeridiano per una botta al ginocchio. Fa molto caldo, temperatura oltre i 30 gradi, ma Conte comunque continua a scegliere orari proprio da Solleone per gli allenamenti, insomma vuol forgiare la battaglia agli azzurri. Tema del giorno, la polemica dal presidente Tavecchio e Marcello Lippi, che doveva essere il direttore tecnico designato della nuova Italia post Conte, ma che è fermato da una norma federale in virtù del conflitto di interessi, visto che il figlio Davide è procuratore. Tavecchio è intervenuto dicendo che lui sta cercando di risolvere la questione secondo le norme. Staremo a vedere, ma insomma direi che Lippi ormai è molto lontano da ritornare nel club azzurro, salvo colpi di sorpresa. Colpi di scena. Dario, in 30 secondi gli ottavi di domani. Gli ottavi di domani, il campo principale è proprio quello che vede opposti Galles e Irlanda del Nord, poi abbiamo Svizzera-Polonia e poi la sera un'altra bellissima sfida tra Croazia e Portogallo. Insomma, si entra nel vivo e con partite senza un domani. Allora ti ringrazio, grazie al nostro Dario Ricci, inviato in Francia per seguire gli europei. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico, il nostro Mario Platero in diretta con America 24, che anche lui tornerà sui temi della Brexit, visti appunto dall'altra parte dell'oceano. Ci risentiamo alla fine per i saluti.